nell'aria e disegnano il tuo viso. Quello che mi resta dei tuoi giorni è quell'ultimo sorriso regalato un momento prima di andare via. Quello che mi resta dei tuoi giorni è solo la malinconia. Quello che mi resta dei tuoi giorni è la smania di uscire, anche se so che non c'è nessuno fuori che mi aspetta. Quello che mi resta dei tuoi giorni è la fretta di riuscire a dormire ogni notte senza ripensare a te. Quello che mi resta è il ricordo dei tuoi baci su di me. Quello che mi resta dei tuoi giorni è il rimpianto disperato di non averti fermato quando stavi andando via. Quello che mi resta dei tuoi giorni sono le parole dolci che mi riempono la gola e che oramai non posso dirti. Quello che mi resta dei tuoi giorni è il desiderio di riaverti. Quello che mi resta dei tuoi giorni è il nulla del tuo scarno addio, senza parole, senza baci, come se fosse normale. Quello che mi resta dei tuoi giorni è la triste sicurezza che non mi è mai importato nulla di chi di noi avesse torto. Quello che mi resta dei tuoi giorni è solo il senso d'essere morto. Questo era naturalmente Claudio Lolli con Quello che mi resta. E continuiamo col nostro coxo spaziale molto estivo con un'infilata di musica, così non vi disturbo con la mia voce. E volevo partire dai Beatles, vi volevo far sentire la versione rimasterizzata di All Together Now, che è una sorta di canzoncina per bambini, per ricordarvi che sono passati 50 anni da che è uscito Yellow Submarine. Infatti, per celebrare questa cosa, in Inghilterra e in America, ahimè non in Italia da che ne so, hanno ripubblicato il film nelle sale cinematografiche con qualche aggiustamento da quanto ho capito. E sembra che vedere Yellow Submarine al cinema sia un'esperienza fantastica, da quanto leggo su internet. Bene, partiamo con All Together Now e poi da lì un'altra infilata di brani coxici, perché è un coxo estivo. One, two, three, four, can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten, I love you. A, B, C, D, Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J, I love you. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. Black, white, green, red. Can I take my friend to bed? Pink, brown, yellow, orange and blue. I love you. All together now. All together now. All together now. All together now. The tree, boom, boom, boom. Skip the rope, boom, boom, boom. Look at me. Dovrei essere Fabio Di Camillo e anch'io ascolto Coxo Spaziale. Padrone della tua sorte, la rabbia con solo fatti più forte, orgoglio rabbia. crescere la rabbia quando esci alla sera, sei una bomba innescata e la noia ti circonda, il portafoglio che si sfonda, non hai più voglia di stare a guardare. Fatti il padrone della tua sorte, la rabbia può solo farti più forte. Orgoglio, rabbia e dita, orgoglio, rabbia e dita, orgoglio, rabbia e dita, orgoglio, rabbia e dita. Orgoglio, rabbia e dita. Coxo spaziale. Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. But you take my hand in your hand, from you the flowers grow. And do you understand, with every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. Two hands with your big heart, you praise God above, but how's that working out for you, honey? Do you feel love? She told me our doors are open to the believer. I believe her, love. I believe her, I believe her. Do you feel love? She told me our doors are open to the believer. I believe her, love. I believe her, I believe her. Oh, Patricia, such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing. Fell from a hole in the sky. I began to drift Make you mad. Love, Luca Bloom, Step Aside, LL Cool J. I'm sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Civilian Bravery Award. Tony Redmond. Spaventosi. Ciao, sono Paola Stey e anch'io ascolto Coxo Spaziale. Thank you. Allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria, quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma non so più dove cercarti. Quale allegria, quale allegria. Senza far finta di dormire con la tua guancia sulla mia, sapere invece che domani, ciao, come stai, una pacca sulla spalla e via. Quale allegria, quale allegria, cambiar faccia 100 volte per far finta di essere un bambino, di essere un bambino. Con un sorriso ospitale, ridere, cantare, far casino, insomma far finta che sia sempre un carnevale, è sempre un carnevale. Senza allegria, uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornale, tornare in fretta a casa, tanto oggi è come ieri. Senza allegria, anche sui treni e gli aeroplani, o sopra un palco illuminato, fare un inchino a quelli che ti sono davanti, e sono in tanti e ti battono le mani. Senza allegria, letto insieme senza pace, senza più niente da inventare, essere costretti a farsi anche del male per potersi con dolcezza perdonare e continuare. vuoi fondare un circolo serale per pazzi sprasolati un poco scemi, facendo finta che la gara sia arrivare in salute al gran finale, mentre già pronto Andrea con un bastone e 100 denti che ti chiede di pagare per i suoi pasti mal mangiati, sogni derubati, furti obbligati, per essere stato ucciso 15 volte in fondo a un viale, per 15 anni la sera di Natale. Gli hanno una durata percepita variabile. Le piazze, le strade, ovunque casa tua. Strani baldacchini magnetici sulle case, sulle chiese. Ti cercano, ti chiamano, ti postano l'ira di Dio. Impediscono di amare e di proliferare. Un giorno il tuo pesce sarà della consistenza dello slime o della trekking light. Telefonati da solo e ditti dove credi di andare a parare. Telefonati da solo, consola le tue membra magnetiche. Tu chiamerai l'amico che in questo frangente può aiutare con il tuo cellulare, ma non risponderà perché si trova in zona che non prende, ma non se la prende. Guarda che Telecom Italia, informazione gratuita. Il numero da lei selezionato è strano. Già finito? Spero che vi sia piaciuta questa infilata di brani. Vi ricordiamo naturalmente che Riccardo Lolli, che è il nostro autore dei due minuti di Lolli, è sempre ascoltabile anche di giovedì a mezzanotte con il suo programma Uova, Soda e Noci. Non smettiamo mai di ricordarvelo e raccomandarvelo. Volevo anche dire un'altra cosa, che naturalmente tutti i pezzi che avete sentito, di cui presumo che alcuni di essi non avrete riconosciuto, sono non solo riascoltabili da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, ma sempre nel nostro blog troverete anche la lista dei pezzi, per cui scoprirete anche chi erano. Io vi lascio con un'altra infilata di brani, visto che appunto in questo coxo estivo è abbastanza caldo, devo dire. Ahimè, non ho tempo, Non ho tempo di parlare né d'arte né di teatro, Fedra è dispersa, ma prima o poi ritorneremo. Intanto godetevi gli ultimi sprazzi di estate e noi cercheremo di fare altrettanto. Everything I touch turns to shit. Everyone I try to love won't hear of it. Now my hands are overfull of things I'd like to give. Does anybody want it? Does anybody want it? Does anybody want me? I've been mapping it out. I don't know what's wrong with me, but I wish that it was something. It's silence at the bottom. Yeah. E voilà, questa era Coxo Spaziale, io sono Stefano W. Pasquini e questo invece è il nostro direttore che come al solito ci saluta in maniera imponente. Ciao, buon weekend, ci sentiamo di nuovo alle 8 su Radio Città Fujiko di venerdì sera alle 20 e niente, buon fine settimana, buona settimana e ci ritroviamo venerdì prossimo, ciao. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. ポカポカ歌は弾む。子守空も前ならえ、いててぶつかったら米のポーズ。ピョコピョコ帰る、ピョコピョコ帰る、シャカシャカ歯磨き、シャカシャカ歯磨き。